24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning. Finissimo, mi sono svegliata alle 7:30 per questo. La voce che sentite è quella di Michela Murgia in un fuori onda ad Agorà. Mi sono svegliata alle 7:30 per questo. Non era evidentemente molto contenta dell'intervista, ma apriti cielo, si sono scatenati le ironie nei confronti di una delle candidate alla regione Sardegna. Mi sono svegliata alle 7:30 per questo? Vabbè. Good morning to you. Mamma mia, dopo 3 ore di sonno io devo sentire ste cose. Sono le 6:32 minuti, cari italiani, e voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, Peter Bescapè, il nostro alpino in regia, e il Parlamento che può aprire. Dai. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Parlamento. Forza, capito, forza, gente, capito, mi sono svegliata alle 7:30 per questo. Cara Aurora Lussana, direttrice della Padania, capa, capissimo. Io mi sono alzata alle 5:15. Per questo. Per andare a comprare il Toblerone in Svizzera, che poi mi chiudono le frontiere e non si può più andare Mamma mia, il Toblerone. No, sono drammi. Sono drammi. Sono drammi. Eccola lì, è entrata subito nel vivo. Allora, che ora ti svegli? Hai sentito Michela Murgia, che mi sono svegliata alle 7:30 per questo? Vabbè, ma lei è un intellettuale, una letterata. È vero, è però vero. È una brava indipendentista e sovranista. Eccola lì, è salvata per questo. Saluto Alessandro Giglioli dell'Espresso. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno. Ora ti tocca farci domande intelligenti, perché a noi ci hai fatto svegliare alle 6:15, alle 6. Infatti. La Murgia si lamentava della domanda cretine, quindi... Vabbè. Presto, Milan, ci hai rotto i coglioni con questa storia delle ore di sonno, 5 ore, 3 ore, 4 ore, ecco. E tutte le settimane sempre a sta rottura di coglioni. Ma guarda, io sono 30 anni e mi alzo alle 4:30, ma io vado a rompere i coglioni al centro come voi, Ecco, hai capito, Giglioli, questo era lo sfogo. Questo signore? È un signore che ha lasciato un messaggio in segreteria un po' di tempo fa, è diventato un mito, no? Cioè, avete scusi, questo me l'ero perso. No, ma io mi sveglio sempre alle 6, quindi sono 31, ma mica per apposta, perché da quando ho avuto la bambina il mio bioritmo si è sputtanato, mi sveglio alle 6. Ecco. Alessandro, vuoi lanciare un grosso saluto a Ermanno? A Ermanno? Sì. Spendo chi è, lo farei volentieri. Come non sai chi è Ermanno? Mamma mia. Perdonami. Ermanno è il papà di Aurora Lussana. Ermanno è camionista. È camionista. Sarà già sulle strade col buongiorno, suo camion. Va Laura Barbù. A chi? No, è il nome del camion di Ermanno. Quello che non si diceva a Milano, questo razza padana, mica fichi, insomma. Noi eravamo anche razza padrona, ormai. Razza padana. Mandano le cancellerie. Guarda, va Laura Barbù nella... Lussana non si arrabbia, no? Non si arrabbia mai, non si arrabbia mai. Va Laura Barbù, noi, per prendere in giro noi stessi, anche un po' così. Sì. Poi aggiungevamo, tu ci siete runche, veni anche a famminga lavorare a me. No, per ridere, che vuol dire tutti questi meridionali che vengono qua? Tutti questi terroni sarebbe la traduzione. Ma allora vado via, scusate. Scusate. No, perché questo è la presa in giro che ci autofacevamo. Aurora, come vai via? Hai detto che non ti arrabbi adesso. Mi commuovo a sentire queste cose. Ti commuovi, vai via perché per commozione. Perché la Lussana è convinta che io sia un intellettuale poltrone romano, io sono... signore milanese, lavorare anch'io, padano dentro. Allora, però, attenzione, perché Michela Murgia poi è intervenuta e ha dovuto precisare che mi sveglio, è una vita che mi sveglio alle 7.30, che è una precisazione, sentite, la Murgia. In questo caso è mi sveglio alle 7.30, è una vita che mi sveglio alle 7.30, ho fatto lavori di tutti i tipi, dalla telefonista, ho lavorato in una centrale termoelettrica, ho fatto l'insegnante, ho lavorato negli alberghi, ho fatto il portiere notturno, non è mai stato un problema per me alzarmi presto. Contestava in realtà la domanda, cioè mi sono svegliata alle 7.30 per questo, perché ce l'aveva con la domanda. Vabbè. Guarda, posso dire una cosa, Ale? Sì. Questo qua è un problema della televisione. Cioè la Murgia ti vede che non è una politica, è poco certo, andare in televisione. Certo. Non che io sia un politico, ma tu vai in televisione, magari ti fanno fare una alzataccia oppure ti costringono a rimandare altri impegni, ti fanno per due minuti, ti fanno arrivare un'ora prima perché sono terrorizzati dai ritardi, poi ti fanno parlare 20 secondi. Sì, sì. Durante i quali non riesce a dire niente, alla fine dico, grazie, arrivederci. Esatto, grazie, arrivederci. È la dura legge della TV. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, io non ce la posso fare a leggere oggi i giornali. Ragazzi, ma affondiamo nel 2014 e pensiamo al complottone del 2011. Vi rendete conto? Cara Aurora Lussana, di qualcosa a te. Ci sono paginate su cosa successe nel 2011. Stiamo schiattando nel 2014 allora, e ci preoccupiamo. La Padania. Ecco, allora comprate la Padania. La Padania che non parla certo degli scontati complotti dell'estate del 2011, quando a San Moritz hanno deciso i destini del nostro paese. Sì, sì. Voi parlate di una Svizzera che non è San Moritz, eccolo lì. Esatto, noi parliamo del popolo svizzero, parliamo, sai di chi? Del mito di Guglielmo Tell. A me piace il mito di Guglielmo Tell. Ma tu lo sai che alle 8.15 lo sai? Contro l'impero. Sai che alle 8.15 avrò Roberto Maroni ospite? Ho visto. L'hai visto. Parlerete di frontalieri, di Svizzera. Sì, sì, sì, bravi, certo. Mi piace, devo dire, Radio 24. Siamo d'altronde la seconda migliore radio al mondo dopo Radio Padania. Si sa. Si sa. Giglioli, che c'hai contro la Svizzera? No, Guglielmo Tell è quello che nelle relazioni si chiama hard news, proprio roba da politica. Sì, no, vabbè, però la questione della Svizzera è una questione. Ma sì, ci arriviamo. Vogliamo dire due parole sul complottone? Dai, forza, Giglioli. Giglioli, ci fu il complottone, su, la tua, dai. No, il complottone. Più che su, posso dire una roba? Sì. La situazione del giornalismo italiano, ma non solo italiano, dimostra la sua pochezza con questa cosa, perché questo scoop, con rispetto parlando per l'esimio famoso collega Friedman, è una bufala, perché se tu prendi la stampa del 24 luglio del 2011, appunto, c'è scritto l'investitura di Monti per il dopo Berlusconi. Quindi già si sapeva a luglio. Di Fabio c'è una pagina intera di Fabio Martini di luglio del 2011, luglio, quindi quando stava succedendo, una paginata intera dove c'è tutto, o dico tutto, quello che è esploso. Vabbè. Allora, ci stiamo un po' a far prendere per il naso, se vogliamo parlare di giornalismo, se vuoi parlare del complottone è un altro discorso. Vabbè. Però, allora io se devo fare un complottone, tutte le scuse sono buone per mandare Brunetta. Sapete che io ho questo no, Aurora, io ho questo difetto. Brunetta mi mette sempre di buon umore. E quindi beccati Brunetta sul complottone, su Monti. Brunetta. Mario Monti dice che nel 2011, a giugno, prima che la tempesta dello spread scoppiasse, fu contattato dal Presidente della Repubblica per sostituire o per essere disponibile a sostituire il Presidente Berlusconi, legittimamente eletto nel 2008. Rivelazioni confermate da Prodi, confermate da De Benedetti e confermate dal presidente. Cara Aurora, vedi, questo è il complotto. Oggi Libero, il giornale, si deve dimettere, Napolitano non è il nostro presidente, complotti, complottoni. Non stiamo mica bene con la zucca. No, vabbè, adesso insomma. Aurora, forza! La dimostrazione che a Palazzo Chigi ci deve sempre andare qualcuno che ha ovviamente un avallo popolare, che il presidente deve sempre uscire da un voto popolare, per quello che nel 2011 la Lega non votò Monti, anche se doveva salvarci col suo Loden e con le sue buone maniere. Il Loden, certo. Quindi se c'è adesso che si profila un'operazione ancora di Palazzo, con Renzi, questi poi sono i rischi connessi a questa operazione. Ma non difendi neanche il governo di allora, era il vostro governo. Aurora, avete perso il governo per un complottone delle cancellerie internazionali, Obama, Sarkozy e Merkel. Vabbè, è così, lo sapevamo, fu una scelta, ripeto, decisa dalle cancellerie straniere. Vabbè, l'Italia non ha più sovranità né monetaria né politica né economica, e così quando sei una colonia decidono gli altri governi. Per te è così, cioè dici, fai passare questa cosa in maniera sì fu un complotto delle cancellerie straniere. Vabbè, ci sta, ripeto, ci quando sta. Un paese non ha più sovranità succedono ste robe. In Svizzera non succedono, loro sono mille anni che sono una nazione, hanno fatto un giuramento sacro, hanno Guglielmo un giuramento nazionale come Guglielmo Tell, fanno quello che vogliono, noi non possiamo permetterci. Niente, Giglioli, riporta tutto a lì, la Svizzera, adesso dobbiamo... La Svizzera è questa icona, Aurora. Ce l'hai una mappa della Svizzera in casa? Certo. Tu sai che Elisabetta. Il giuramento del Grüezi. Diceva Dürrenmatt che era svizzero. Cos'è che c'ha? Dürrenmatt che era svizzero. Diceva sempre che la Svizzera è grande come il cimitero di Vienna, però è più triste. È più triste. Questo lo diceva Dürrenmatt. Insomma, però sarà triste, però sa fare i propri interessi. Ecco, questo è quello che oggi la Padania. Che titolo ha in prima pagina, caro Giglioli? Lezione Svizzera. Cioè, come volevano dire? Fare lezione di svizzero, poi hanno scoperto che non c'è la lingua. Allora, vabbè, adesso ne hanno quattro, sono pluralisti. Questi ignorantoni padani hanno scoperto che lo svizzero non è una lingua. Allora, no, prima di arrivare alla questione della Svizzera, la questione è un po'. Più seria, perché più legata all'oggi, è la questione Renzi-Letta. Pare davvero le ore, i giorni in cui si decide. Decisive! Non lo volevo dire, lo dice. Oh, il Corriere inizia così un articolo. È la settimana decisiva, anche oggi. Allora, Giglioli, deve andare al governo o no Renzi? Questa è la domanda che tutti si chiedono. Ma deve in senso etico? No, deve, cioè, nel senso, se tu fossi un suo consigliere. Consigliere, no, gli direi assolutamente di no, ma grazie al cielo non sono un consigliere, ma sono anche sempre meno attratto dalle attività di Renzi, specie dopo che ha messo in piedi questa orrenda legge elettorale. Poi che lui debba andare invece in senso etico, secondo me un po' sì, nel senso che non è che può continuare tutta la vita a essere il maggior azionista di questo governo, perché di fatto il PD lo è, e contemporaneamente dire che questo governo fa schifo. È un sistema propagandistico che a me non piace, cioè se tu sostieni un governo, non è che puoi fare contemporaneamente il capo del governo e il capo dell'opposizione. Però lui dice il governo, a un certo momento il governo deve anche fare. Le responsabilità, vediamo cosa sa fare, solo che lui sta benissimo in questo Parlamento che è mezzo sputtanato, pieno di bersaniani dalla parte sua, gente pronta a impallinare dall'altra palla, si ha paura di... Sì, è chiaro che ha paura. Infatti, racconta Repubblica che Berlusconi gongola ad Arcore così. Vada il governo che in un anno si logora e noi facciamo bingo. E questa è la paura, cara Aurora, questa è la paura di Renzi, che effettivamente lì a dire che faccio? Mi faccio logorare, mi butto a Palazzo Chigi, poi mi dicono non sei stato eletto da nessuno e sei qui? Oppure aspetto? E che vuol dire aspetto? E quindi tramo contro Letta, che è del mio partito, non è una situazione facile. Bisogna capire Prodi cosa gli consiglia. Prodi, eccola là. Il complottone di Prodi dietro tutto. Renzi ha un solo consigliere, secondo me. Chi è? Che è il suo specchio, fondamentalmente. Cioè? Si guarda lo specchio e dice, il suo specchio. Scusa, ho 3 ore di sonno, questa l'ho capita con un attimo di ritardo. Però Aurora, dai, cosa deve fare? Lo deve fare o deve andare o no? Dimmi il tuo parere da cronista parlamentare, quale sei stata? Adesso deve decidere cosa fare da grande, non può più fare l'antipapa di Renzi, di Letta, e vediamo. Certo che, ripeto, essere come un... Te lo ricordi quello che andò al governo dopo il primo governo Berlusconi, Lamberto Dini? Cioè, rischia di fare la figura di un Lamberto Dini qualunque, così, che con un'operazione di palazzo, così va a Palazzo Chigi, non lo so, la Valle Popolare. Quindi tu, che sei notoriamente un consigliere di Renzi, cosa gli consiglieresti? Mettiti un attimo, fosse Maroni, dai, fai un attimo come se fosse Maroni, cosa gli consiglieresti? Ma Maroni ha a cuore gli interessi dei Lombardi, lui eccoli, ha detto che no, i suoi interessi capito, non coincidono con gli interessi degli italiani, eh. E l'ha dichiarato lui, ha detto a me converrebbe andare al voto adesso, agli italiani no, deve decidere deve i suoi interessi della sua parte o deve decidere. Vabbè, qua tra... abbiamo deciso, noi facciamo gli interessi del nord. Oh, gli interessi del nord. Allora facciamo così, ripartiamo da qui dopo le informazioni sul traffico. Oh, qui complottoni, complotti, complottini, non si capisce niente. Io però una domanda, mi sono svegliato con una domanda e a questa poi ve la porrò alla fine, alla fine, perché a questa io voglio una risposta. Questa per me è la domanda che mi attanaglia da, ma ve la tengo per dopo, perché nessuno sa darmi una risposta. 24 mattino. Ma insomma, signor Milan, ma adesso anche le tangenti nel cielo sono nate. Ma ci mancava anche questa? Vogliono fare il Letta bis, il Monti bis. Ma non sono accorgono che ci hanno portato nell'abisso, non nel bis, ma nell'abisso ci hanno portato. Ci hanno sminollato anche le ossa, ci stanno levando il sangue d'addosso. Non abbiamo manco più le unghie dei piedi e delle mani. Milan, sono veramente incazzato. Ho pagato da buon italiano l'abbonamento alla RAI e non mi fanno vedere nemmeno l'apertura delle Olimpiadi invernali. Cri cri cri, cri cri cri, cri cri cri, in gabbia vai a finire. Cri cri cri, cri cri cri, cri cri cri, in gabbia vai a finire. Milan, devi essere un po' più cattivo, un po' più aggressivo a prima mattina, così ci dà la carica giusta. Mi pannella, mi voglio da ridere, intanto che tu fa tutte le piazzate come vuole, lui mangia con la sua politica. Meglio un bicchiere di vino che uno spinello. Il ministro Mauro è dagli indiani, la Bonino che si indigna perché hanno rinviato ulteriormente. Ma che vi indignate a fa? L'avevate qui e l'avete rimandati voi laggiù. E ora si indignano. Come il marito che per far sfregio alla moglie si taglia coglioni. E anche la Nox che è stata condannata, secondo te ora la rimandano. Col binocolo la rivedi. Cucù. Ciao Nini. Ciao Nini anche a te. Ciao Nini. Aurora Lussana, direttrice della Padania. Bisogna essere cattivi, posso iniziare con te? Non lo so, voglio... Sì. No, come sì, non essere così remissiva. Allora... No, ma sono molto tollerante io di mio. Ma no, ma lo so, ma infatti... Allora, questa storia della Svizzera, ma cosa c'è di così essere tronfi di quello che ha fatto la Svizzera, cara Aurora, che ha fatto questa cosa anti-europea? Certo, hanno pensato agli svizzeri, no? Questo paese, tutti belli chiusi, no? Belli moderni, chiudono le frontiere, le quote. Ma gli svizzeri non sono chiusi, sono un paese internazionale da sempre, plurale, sono 26 cantoni uniti da secoli. Loro hanno fatto un giuramento, noi della Lega piacciono i giuramenti, il giuramento di Pontida, il giuramento del Grutli, ci piacciono i popoli liberi che si federano fra di loro. È un popolo, ripeto, che ha sovranità nazionale, monetaria, noi non abbiamo più, e politica, che noi non abbiamo più. È uno schiaffo a questo tipo di Europa, sì, che vuole muovere le persone come merci. E la Svizzera, ho conosciuto qualche esponente dell'UDC buono, che è l'UDC svizzero ovviamente. Sì. Quello che dicevano, quello che un po' hanno detto anche gli stranieri sono come i topi, in uno slogan. Ma quello lì è Ballarat, un po' un'altra roba, una provocazione. Una provocazione. Sì, allora, loro comunque sono un popolo pacifico, non vanno a far guerre coloniali a nessuno e già per questo vanno rispettati. Sì. Perché il vero razzismo, quelli che trattano gli stranieri da topi, sono quelli che li spostano come merci, li sradicano dai loro paesi o magari vanno nei loro paesi a comandarli. Detto questo, è un popolo, ripeto, che è un grande modello. Vabbè, un grande modello. Oh, ho capito, Giglioli, stai prendendo appunti di anti-europeismo. Come no, io tutta la vita che voglio vivere come Lugano, figurati. No, ma uno tra l'altro ci ha scritto poco fa via SMS, ci ha scritto Lugano, la municipalità di Lugano sta per fallire. Io non lo so, la do come, io sai che mi fido tantissimo dei miei ascoltatori. Sì, ha ragione, se... perché vedi che ha ragione. Ticino era il cantone più povero di tutta la Svizzera. Eh beh, certo, perché arriviamo noi italiani, certo, perché arriviamo. No, salutiamo tutti i frontalieri, gente per bene, gente grande. Giglioli, che c'è? Che c'hai? C'avevo un amico quando lavorava a Milano, che poi ha fatto il consigliere regionale per la Lega tanti anni fa, si chiama, sì, Colombo, il quale in redazione aveva appeso un cartello che diceva teniamo l'Italia pulita, buttiamo i rifiuti in Svizzera. Questa era la sua visione della Svizzera. No, vabbè, a parte le scemenze, la Svizzera non mi sembra esattamente un modello di paese aperto, ecco. Lei dice che non è chiuso, è aperto molto alla circolazione della finanza, non fanno tanto gli snob quando si tratta di importare capitali, quando si tratta di importare persone, vabbè. Cose, allora noi dovremmo forse... Le persone non sono merci. Brava, bravissima, sono perfettamente d'accordo. Noi possiamo scegliere che tipo di futuro avere davanti, cioè il futuro in cui circolano soltanto le merci, i capitali e non le persone, quello in cui non circola nessuno, che mi pare quello che piace, sì, a Lussana e alla Lega, e quello in cui invece le persone possono circolare almeno quanto le, sì, merci. Io sono per questo, cioè sono per un pianeta aperto e non chiuso, ma non aperto soltanto ai capitali. Tra l'altro, guarda, la nostra Miriam Lucchetti mi fa sapere in diretta: Lugano rischia il fallimento, ha debiti da 1 miliardo con le banche. E cavolo, cioè, uscite dal municipio, entrate in una banca e chiedetegli. Vabbè, insomma, la finanziaria ha ridotto il gettito da banche fiduciarie. In un decennio il debito pubblico è salito di 1.255%. Oh, ma che è? Questo è il modello, cara Lussana. Lugano. Bisogna fare una zona franca. Eccoli. 20 chilometri di fascia di confine dalla Svizzera. E quello fallo di Ramaroni, tutte le imprese ritornano in Lombardia e i frontalieri non sono costretti ogni giorno a attraversare la frontiera. E quelli che stanno a 11 chilometri dal confine sono fottuti. No, tu fai una fascia di 20 chilometri. Ah, di 20. No. E a quelli che stanno a 21? Sì, ma ragazzi, qua trascende un po' la Svizzera, no? Cioè, tutto sto pianeta che si è aperto, non c'è niente, bisogna solo decidere. Cioè, se noi pensiamo di tornare, ma lui è mondialista, ma rispettiamolo un popolo. Sei un mondialista, Giulioni, sei un globalizzatore. Ma no, ma noi, a parte i mondiali di calcio, se vogliamo guardare a questo pianeta, vediamo che non c'è una mazza da fare. Questo pianeta si è aperto negli ultimi 20 anni. Milano e Kathmandu, Tokyo e Buenos Aires si sono avvicinati. Cioè, sta allora, dicendo che esatto. Oppure proviamo a gestire. Sta dicendo Aurora che siete un po', voi svizzeri, non so, ti metto tra gli svizzeri, un po' antistorici. Comunque io mi devo mi devo fermare qui, perché poi approfondiremo alle 8:15. Beh, c'è questa domanda che mi gira. Questa è la vera domanda, non il complotto, doveva finire. Sai qual è la domanda, cara Aurora? La domanda è questa. Domanda è: ma Obama se la fa con Beyoncé o no? Rispondetemi a questo, che è questa la domanda. Beh, posso dirti, sarebbe meglio che vincere la guerra mondiale. Perché? Che vuol dire? È bellissima Beyoncé. Ah, vabbè, ho capito. Ti ringrazia moltissimo Michelle Obama per questo tuo endorsement nei confronti di Beyoncé. Tu, Giglioli, rispondi a questo. Io me lo auguro fortemente, perché se l'uomo più potente del mondo è soddisfatto sessualmente, magari ha meno voglia di bombardare in giro per il mondo. Vabbè, la mettiamo così. È pure il premio Nobel per la pace, quindi non c'è questo problema. Vabbè. Grazie Alessandro Giglioli. Salutiamo Aurora, Lussana ed Ermanno, grazie, il padre di Aurora, col suo camion Barra Barbù, che sarà in giro per le strade lombarde e padane. Grazie a tutti, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci. Eccoci qui, sono le 7:18 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori. Forza, dai, dico sempre, razza di debosciati, che fate? Andate a lavorare, producete, fate qualcosa, che c'è da risollevare il PIL italiano. Vi ricordo che oggi avremo ospite il governatore della Lombardia Roberto Maroni alle 8:15 per parlare, partire da lì, per parlare di quella che è la decisione in Svizzera di mettere, tornare alle vecchie quote degli immigrati anche dall'Unione Europea, no? Rivedere gli accordi con l'Unione Europea, così hanno deciso in Svizzera con un referendum, e lì il volere popolare conta, cari cittadini, conta. Di questo parliamo dalle 8:15, ora andiamo a sfogliare i quotidiani. È martedì 11 febbraio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre su un dato negativo, produzione di nuovo in caduta, la gelata sulle aspettative di ripresa dopo una leggera risalita. Questo è il titolo di prima pagina sull'attività industriale, giù dello 0,7% a dicembre. Poi la vicenda, per me, per qualche verso devo dire francamente un po' incredibile, ma le paginate che troverete oggi su tutta la questione del complotto, non complotto, dell'estate del 2011. Eccola qui la carrellata di titoli. Napolitano, nessun complotto, il Corriere della Sera. Repubblica, Forza Italia, attacco a Napolitano, complottò contro Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, Monti, intrigo sul Colle, ora Napolitano è nei guai. Avvenire, veleni sul Colle. Il Giornale, Napolitano non è più il nostro presidente. Libero, alto tradimento, deve dimettersi. E c'è la foto di Napolitano. L'Unità, giù le mani da Napolitano. Il Manifesto, povero re. E c'è la foto di Napolitano. E, insomma, affondiamo nel 2014, ma ci preoccupiamo di quello che avvenne nel 2011. Vabbè. Lo vedremo poi sui giornali. La Stampa invece si concentra su quelle che sono le situazioni di governo attuali, almeno. La Stampa, vertice sul futuro del governo. Il Messaggero, governo, il Colle sonda Renzi, mentre il Secolo XIX, Napolitano frena Renzi. Quindi, come vedete, due titoli contrastanti di due quotidiani. Io però voglio partire dai tanti articoli che ci sono ancora sul caso Svizzera, con l'Unione Europea che appunto ha deciso, la Svizzera ha deciso di rivedere i trattati con l'Unione Europea, gli accordi con l'Unione Europea per la libera circolazione delle persone e dei lavoratori all'interno della Confederazione Elvetica, per rimettere, questo è stato deciso in un referendum, le quote, i tetti massimi di lavoratori che possono entrare in Svizzera. Ovviamente ne parla il Sole 24 Ore in una pagina, pagina 8, con Beda Romano, che parla dell'esito del referendum sul futuro dell'immigrazione, che ha creato un'incredibile matassa giuridica politica dai risvolti incertissimi, perché in dubbio il rapporto tra Unione Europea e Confederazione Svizzera in vari ambiti, anche commerciali. Chiaramente, dice la portavoce della Commissione Europea, non possiamo accettare le restrizioni approvate domenica. Questa avrà certamente implicazioni per il resto degli accordi che abbiamo con la Svizzera. Insomma, il 50,3% degli svizzeri che ha chiesto di reintrodurre limiti all'immigrazione genera problemi. Ci sono posizioni sui giornali, per esempio il Giornale mette un commento in prima pagina di Marcello Foa dal titolo "Altro che razzisti, io difendo la Svizzera, qui è straniero uno su quattro". Marcello Foa, che tra l'altro lavora in Svizzera e scrive "So di andare controcorrente, ma io difendo la Svizzera, che è e resta un esempio di democrazia, tolleranza, altruismo. No, non è xenofoba, nemmeno razzista, come molti hanno lasciato intendere commentando il voto dello scorso weekend. E come potrebbe esserlo un paese che da sempre è capace di integrare un numero impressionante di stranieri? Che succederebbe se in Italia il 23% della popolazione fosse straniera? Ebbene, questa è la percentuale della Svizzera, oggi come ieri e verosimilmente anche domani. Già, perché la Confederazione Elvetica non ha deciso di chiudere le frontiere, tantomeno di espellere gli oltre 60.000 frontalieri italiani che lavorano nel Canton Ticino. Il popolo svizzero ha dato mandato al governo federale di rinegoziare entro 3 anni i trattati esistenti e di introdurre leggi che fissino destino dei contingenti di manodopera in funzione agli interessi globali dell'economia elvetica, come peraltro avviene negli Stati Uniti, in Canada, in Australia. E allora dov'è lo scandalo? Perché l'Unione Europea è tanto preoccupata? Sarò all'antica, scrive Foa, ma per me la democrazia è un valore assoluto, intoccabile, sacrale e va rispettato. In teoria Bruxelles ha una visione più elastica, ritiene superflua la legittimazione popolare e non può certo tollerare gesti di ribellione o addirittura di revisione di accordi esistenti. Insomma, il voto elvetico è scandaloso perché anticipa il sentimento che un numero crescente di popoli europei prova nei confronti dell'Unione Europea e delle organizzazioni sovranazionali. Su questo ci sono tanti commenti, per esempio La Stampa con Michele Brambilla segue uno dei frontalieri, Roberto, che è un po' allarmato, dice: è vero, i miei titolari di azienda sono gentilissimi, chiedono rispetto, giustamente, visto che in Svizzera c'è molto più rispetto che da noi, ma sono molto gentili, ma certo c'è il clima, molti, soprattutto qui della Lega in Svizzera, che non sono i leghisti italiani, ma molto più cattivi, ci chiamano topi. Così è la storia di Roberto Bergomi, 31 anni, che ogni giorno fa il viticoltore alla frontiera di Brogeda Chiasso, attraversa il confine e va tutti i giorni a lavorare in Svizzera. La Stampa racconta, attraverso lo sguardo di questa persona, quello che è il voto del referendum. Ci sono tanti commenti sul Corriere della Sera, c'è l'intervento di Fulvio Pelli, che è consigliere nazionale del Parlamento svizzero, e parla chiaramente di vittoria di no come segnale di insofferenza verso l'Europa. E poi c'è il Messaggero che intervista Michel Hunziker. Maria Latella fa l'intervista a Michel Hunziker per parlare di questa decisione, lei che è svizzera. Mentre il Secolo XIX, secondo me è geniale nella sua proposizione oggi di un tema che spesso viene tirato fuori quando si parla di Svizzera. La Svizzera ha luci rosse, ama gli immigrati. Il 90% dei clienti dei bordelli in Canton Ticino, indovinate di che nazionalità sono? Provate un po' a immaginare di che nazionalità sono. Sono italiani, ovviamente. In Canton Ticino 32 case di appuntamenti, il 90% dei clienti è italiano. Un giro da 250 milioni, Luigi Guelpa sul Secolo XIX fa tutto un reportage a pagina 7 e il titolo è La Svizzera luci rosse ama gli immigrati. A proposito di luci rosse, continua, cari ascoltatori, quella che il Messaggero ha definito la Mandrilleide d'Abruzzo, dove si parla del governatore Chiodi e i presunti favori di una persona con la quale ha dormito, non era sua moglie, insomma, questa vicenda già la sapete, ma il titolo di oggi supera la fantasia, supera e nettamente straccia con maniera di competizione, dal punto di vista della competizione, il governatore Chiodi. Le quattro amanti a spese della regione. Si allarga il sex gate in Abruzzo, interrogato a Pescara il presidente del consiglio regionale Pagano, che è accusato di truffa, falso e peculato, ma racconta nell'articolo del Messaggero Andrea Taffi, soprattutto al di là dell'inchiesta, ovviamente, che interessa appunto le accuse di truffa, falso e peculato, ma cosa interessa di più ai lettori? Parliamoci chiaro. Il punto in cui Pagano, nell'informativa dei carabinieri, viene segnalato di aver passato 8 notti in compagnia di 4 amanti, non una, non due, non tre, ma 4, così almeno racconta il Messaggero. Per carità, una di queste, racconta sempre il quotidiano, è finita anche a libro paga del consiglio regionale in una determina dei primi mesi del 2013, una fornitura diretta per servizi consegnati alla struttura speciale di supporto stampa. Smentisco favoritismi, sono solo falsità e coincidenze, ha detto la donna raggiunta al telefono. Certo che non uno, non due, non tre, ma 4 amanti. Vabbè. E che dovete fare? Questo è. C'è solo, prima della pubblicità, una notizia che mi ha incuriosito dal Sole, a pagina 9. Sapete che hanno inventato a Lisbona un metodo che peraltro non è nuovissimo in altri paesi del mondo? Già c'è, le lotterie legate agli scontrini. Qui però succede in Portogallo, dove le finanze pubbliche sono al predissesto o quasi, e dove l'evasione fiscale è un problema tanto quanto in Italia, e quindi in Portogallo hanno deciso di dare dei premi per chi chiede lo scontrino. Tra coloro che ritirano lo scontrino verranno messe in palio in una lotteria che partirà ad aprile 60 automobili di fascia alta. Le provano tutte, il bisogno di gettito aguzza l'ingegno, scrive Il Sole, e così ad aprile partirà questo concorso che mette in palio 60 auto di lusso per chi ritira gli scontrini o sono, da previsione, attesi il 50% di ricevute in più emesse e ritirate. È anche questo uno strumento, chi lo sa? Alessandro Milan e i Berlusconi nelle informazioni, Rivio. Vabbè, sì, vabbè, va bene, grazie, grazie. Allora, alle 7:33 minuti, per me in modo alquanto incredibile, lo dico preventivamente, poi tutti mi scrivono, ma che cosa parli di queste cose del 2011? Oh, i giornali oggi propongono questo, paginate, paginate, aperture, come avete sentito nei giornali, riguardo al presunto complotto, per alcuni complotto accertato con prove, di Napolitano che nel 2011 tramò per sostituire Berlusconi con Mario Monti. Tutto nasce dalle anticipazioni di un libro di Alan Friedman, pubblicate ieri dal Corriere, nel quale si scrive che Napolitano già aveva incontrato Monti ben prima della tempesta finanziaria dell'estate del 2011, ricordate la Banca Centrale Europea che ci chiese gli impegni a Berlusconi, eccetera. E secondo queste testimonianze, tra l'altro rilasciate da Prodi e De Benedetti, questa è la prova provata, secondo per esempio Forza Italia, secondo il giornale, secondo Libero, che Napolitano complottò contro Berlusconi. Ora, ieri la politica è impazzita su questo, nulla serve il fatto che Giorgio Napolitano, capo dello Stato, mandi una lettera al Corriere della Sera nella quale scrive: non ho alcuna difficoltà, certo, a ricordare di aver ricevuto nel mio studio il professor Monti più volte nel corso del 2011 e non solo in estate, conoscendo da molti anni e apprezzando in particolare il suo impegno europeistico che seguì da vicino quando fui deputato a Strasburgo, ma poi bolla come fumo, soltanto fumo, le ipotesi di complotto. Questo nella lettera che ha spedito il capo dello Stato al Corriere della Sera, che trovate pubblicata sullo stesso giornale a pagina 3. Sta di fatto che il mondo politico si è diviso. Forza Italia attacca, si unisce in qualche modo il Movimento 5 Stelle, che già aveva fatto un impeachment per altri motivi, una richiesta di impeachment nei confronti di Napolitano, ma ora in qualche modo insiste e dice: beh, a questo punto si potrebbe integrare anche la domanda per l'impeachment al capo dello Stato. E le reazioni, Berlusconi, scrive il Corriere della Sera, reagisce parlando di congiura, un qualcosa che aveva già detto in passato ma che ora viene corroborato da queste nuove accuse. Sapeva tutto, racconta Francesco Verderami nel suo articolo a pagina 5, della congiura sapeva tutto e conosceva tutti, mandanti ed esecutori, quelli che hanno tramato contro di me dall'estero, quelli che hanno agevolato l'operazione in Italia, sono precise cancellerie dell'Occidente. Non fa i nomi di Obama, Merkel e Sarkozy, ma scrive Verderami a quelli pensa. La sua idea è che oltre confine non abbiano mai accettato l'atteggiamento da Enrico Mattei della politica, i legami con Putin, il rapporto con Gheddafi, comunque fuori linea rispetto ai canoni di Yalta. E quindi eccolo qua, secondo Berlusconi, da ieri continua a dire i suoi, questo è un complottone. Anche su Repubblica, il Cavaliere, l'asse con i 5 Stelle, direbbe ai suoi: è la conferma del complotto, da questo momento scateniamo la campagna contro l'artefice del golpe ai miei danni, ma attenzione a non confonderci coi grillini. Questo è il timore che avrebbe detto Silvio Berlusconi ai suoi ieri, quando ha appreso di queste notizie. Quell'anno, ricorda ancora Berlusconi, fu un vero e proprio colpo di Stato, come vado ripetendo, prima il tradimento di Fini, poi tutte quelle visite di Gianfranco al Quirinale, ora si spiega e torna tutto. E Daniela Santanchè, intervistata dal Fatto Quotidiano, rincara la dose: fu un colpo di Stato e voglio sapere chi sono i complici, fuori i nomi, cosa c'entrava Monti, un privato cittadino che veniva consultato dallo Stato, concordava un piano con lui e poi correva da De Benedetti, tessera numero uno del PD, Monti ha commesso un reato e è andato a rivelare una notizia sensibilissima a un finanziere. Io lo chiamo insider trading. Ma la domanda chiave è il Fatto Quotidiano. Allora proponete l'impeachment per Napolitano. Io spero ci sia un'azione di Forza Italia per far dimettere Napolitano. Non può stare più al Quirinale. Così Daniela Santanchè. E questa è la linea anche sia di Libero, deve dimettersi, sia del Giornale, che scrive con Alessandro Sallusti, l'editoriale di prima pagina, Napolitano non può essere più il nostro presidente. La difesa invece è dell'Unità, l'Unità titola giù le mani da Napolitano, ma anche il Corriere della Sera in prima pagina, in realtà con l'editoriale di Massimo Franco, dal titolo L'emergenza dimenticata, scrive l'idea che di fronte a una situazione in bilico un capo dello Stato sondi la possibilità di governi alternativi non deve scandalizzare, ma paradossalmente rassicurare. E il fatto che Monti fu contattato per Palazzo Chigi anche quando al Quirinale c'era Ciampi, quindi prima di Napolitano, rappresenta una conferma che l'Italia da tempo aveva coalizioni scelte a furor di popolo eppure in costante affanno e incapaci di rispettare gli impegni presi con l'elettorato e l'Unione Europea. Insomma, cari italiani, se vi va bene è così, se non vi va bene è così lo stesso. Oggi sui giornali il menù è soprattutto, per quel che riguarda la politica, quello che successe nel 2011 con storie, ricostruzioni, anche Giorgia Meloni intervistata da Libero che dice è la prova dei nostri sospetti, il cavaliere fu cacciato da poteri stranieri. Cioè qui affondiamo, lo ripeto, nel 2014, ma per un giorno almeno, forse due, tre, ci saranno strascichi nei prossimi giorni, parliamo di quello che avvenne nel 2011. La verità è che nel 2014 la notizia politica più importante, cioè che ieri Renzi è andato da Napolitano, poi forse oggi o al più tardi domani, giovedì, Letta andrà da Napolitano, ecco, questa è la notizia politica perché si decide quello che potrebbe succedere al governo in questi giorni, passa paradossalmente in secondo piano. Eppure ieri c'è stato questo incontro fiume, come titola al Sole 24 Ore, tra Napolitano e Renzi, un faccia a faccia che viene definito da Lina Palmerini e Emilia Patta teso, un faccia a faccia teso sulla possibilità di una staffetta, cioè Letta Renzi, e altre opzioni. Un incontro a sorpresa, scrive il Sole, una cena tra Giorgio Napolitano e Renzi mentre tutti aspettavano di sapere quando Letta sarebbe salito al colle. E invece al Quirinale è andato il segretario del PD, un faccia a faccia teso, durato due ore, durante il quale sono stati esaminati tutti i possibili scenari della legislatura e del governo Letta. E Letta che tiene duro, tutti i giornali raccontano, anche Amedeo La Mattina per esempio sulla Stampa pagina 3, stoppa le voci di dimissioni, ma quali dimissioni, è fantapolitica che io mi dimetta, sono qui e vado avanti, voci totalmente infondate, sono assolutamente tranquillo, taglia corto con i suoi lo stesso Letta, che poi guarda i sondaggi, dice che la gente non capirebbe la staffetta e dunque dice sono tranquillissimo, le voci sono totalmente infondate, in ogni caso di tutte le questioni discuterò entro questa settimana con il capo dello Stato. D'altra parte c'è un Renzi che scappa, palpita anche per il Corriere della Sera, effettivamente Letta dice io resto qui, ma aggiunge il Corriere della Sera, effettivamente lo stesso Enrico Letta, lo stesso Presidente del Consiglio, nell'articolo di Monica Guerzoni dice ai suoi la situazione è ormai insostenibile in questo duello quotidiano con Matteo Renzi. Matteo Renzi che dall'altra parte nel retroscena di Goffredo De Marchis in prima pagina di Repubblica viene definito come un Matteo Renzi sempre più tentato dal pressing della staffetta, perché scrive De Marchis, lo ha detto agli amici di sempre incontrati ieri mattina a Firenze, se arriva una richiesta corale per fare il Presidente del Consiglio non è che posso dire di no. Questo è lo spirito con cui Matteo Renzi si prepara a giocare la partita ed è una partita che sarà importante, decisiva, scrive Repubblica, nelle prossime 24-36 ore. Si deciderà tutto in un giorno e mezzo. Appena arrivato a Roma nel primo pomeriggio il segretario ha già cambiato umore, diventa più cauto, dice è una situazione molto aperta, nessuno sa come andrà a finire. Certo, ha detto a Napolitano si può andare avanti col governo Letta, un rimpastino, ma fino a quando? A ottobre, questo esecutivo sarebbe sul binario morto. Io non sarò un segretario di passaggio come Epifani, questo se lo devono scordare, non sarei io, non è nella mia natura. C'è un Renzi che dice la partita è aperta, ma certo ora comincia a pensare se in tanti in maniera corale mi vogliono premier, non posso dire di no. Come andrà a finire lo scopriremo in questa settimana, che ripeto anche il Corriere titola decisiva. Vabbè, io ve la giro così. Intanto voglio salutare Giuseppe Chiellino del Sole 24 Ore. Giuseppe, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Alessandro. E allora, oggi il Sole, ho detto che apre su questi dati non certo positivi, ahi noi, sull'industria. Sì, purtroppo della produzione industriale, esatto. Si sperava che la ripresa si stesse consolidando, invece dicembre ha dato di nuovo un segnale negativo, come hai raccontato poco fa. Io però volevo segnalarti dal quotidiano un paio di temi fiscali. Non so se ti ricordi la IUC, e come no. non è il verso di Pippo, come no, molti no. hanno ironizzato nei mesi scorsi, ma l'imposta unica comunale che dovrebbe unificare la vecchia IMU, la TARI, che è l'imposta sui tributi, e la TASI sui servizi indivisibili. Già questo mi sembra un quadro abbastanza complicato, ma le cose si stanno complicando ulteriormente, perché nel decreto attuativo, la cui bozza è stata anticipata questa mattina da Gianni Trovati sul Sole, si dice che i comuni possono inviare il bollettino precompilato. Questo per i contribuenti è una complicazione non da poco, perché significa che dovranno fare da soli i calcoli delle tre imposte. Quindi i comuni non sono obbligati a inviare il bollettino precompilato, quindi con la cifra da versare, sì, calcolatevela, insomma, fate dei corsi, dei corsi di aggiornamento rapidi e datevi da fare. Insomma, no, non voglio essere pessimista, mi sembra un altro segnale che ci saranno sistema, dei problemi anche il nostro sistema di prelievo fiscale si avvicina a grandi passi al collasso. E un'altra notizia che riguarda sempre il fisco è quella delle compensazioni. Nei giorni scorsi sembrava che si fosse trovata una soluzione molto attesa, soprattutto dalle imprese, cioè di compensare i debiti fiscali con i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, e invece anche qui servirà un nuovo decreto attuativo, questo incubo del decreto attuativo entro 90 giorni, che dovrà stabilire le modalità, il perimetro, gli aventi diritto, eccetera, eccetera. Quindi anche qui ogni giorno si fa un passo avanti e mezzo indietro, più o meno. E poi invece dalle pagine di Finanza, una cosa un po' più leggera ma comunque interessante, a parte le notizie sulle varie ristrutturazioni bancarie che si stanno stanno andando avanti nel sistema finanziario italiano, segnalo la prima puntata dell'inchiesta di Gianni Dragoni sui bilanci delle società di calcio. Non si parla del Milan, si comincia con il Napoli, che segna il suo settimo anno di bilancio inutile, di conti positivi, quindi insomma si parte dal Napoli. Beh, questa è una questione che certamente interesserà al di là dei tifosi, è molto interessante quando poi si va a vedere i conti delle nostre squadre del cuore, insomma degli italiani che seguono con passione il calcio. Giuseppe, ti ringrazio, ci dobbiamo sentire domani, e grazie per essere stato con noi. È il momento delle informazioni sul traffico. Alessandro Milan, José Mourinho dell'informazione. Va bene, eccoci qua. Allora, altre notizie che mi hanno colpito dai giornali. Libero racconta che ieri in Veneto si sono riuniti in 222 all'appello di Ennio Orsini e Stefano Biasioli, responsabili di due piccoli sindacati dei pensionati pubblici. E il titolo è: un nuovo assalto alle pensioni d'oro, la rabbia dei super contribuenti. Cosa hanno annunciato queste due piccole sigle sindacali? C'erano con loro medici, ex magistrati, ex segretari di enti locali, ex questori, qualche generale che aveva lasciato il servizio. Annunciano ricorso alla Corte dei Conti di Venezia per il famoso contributo di solidarietà con scaglioni progressivi 6-12-18% a partire dai redditi superiori ai 90.000 euro lordi l'anno. Balzello che doveva essere applicato a gennaio, c'è già stato un primo rinvio a marzo. ed eccolo lì quando si fa il tentativo, in questo caso il cosiddetto contributo di solidarietà, partono subito le autodifese. In questo caso ricorda Libero con Nino Sunseri a pagina 15, sono due piccole sigle sindacali di pensionati pubblici che contrastano l'idea e l'ipotesi del prelievo sulle pensioni d'oro, cosiddette, così definite pensioni d'oro. Attenzione, c'è un'importante sentenza oggi attesa dalla Corte Costituzionale, deve decidere sul caso di un uomo condannato a Trento in appello a 4 anni di reclusione e 26.000 euro di multa per il trasporto di 3,8 kg di hashish, dunque di droga. E deve decidere la Corte Costituzionale il ricorso di quest'uomo, e la decisione di oggi viene definita sia dal Giorno sia dal Manifesto come importante, perché potrebbe essere una decisione della Corte Costituzionale che boccia la legge Fini-Giovanardi sulla droga. Inconsulta la legge Fini-Giovanardi, questo è il titolo del Manifesto a pagina 4, che gioca sulle parole inconsulta come aggettivo, ma anche consulta la Corte Costituzionale. E anche il Quotidiano Nazionale titola addirittura in maniera un po' più spinta: cannabis libera Italia al bivio, oggi il verdetto sulla legge antidroga. Scrive il Quotidiano Nazionale: la Fini-Giovanardi finisce sul banco degli imputati, questa legge del 2006 che ha parificato droghe pesanti e leggere sarà esaminata oggi dalla Corte Costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità di una legge sempre più discussa anche per i suoi effetti al sovraffollamento delle carceri. A sollevare dubbi di legittimità è stata la Cassazione, con un'ordinanza depositata l'11 giugno 2013, e in particolare si parla appunto di questo caso di un uomo condannato a Trento. Prima che entrasse in vigore la Fini-Giovanardi, a droghe più o meno dannose corrispondevano pene più o meno alte, un quadro modificato dalla legge, o meglio dal decreto legge relativa legge di conversione, perché le pene che prima andavano da 2 a 6 anni per le droghe leggere sono passate a 6-20 anni di reclusione e multa fino a 260.000 euro. Anche il Manifesto si concentra su questo pronunciamento che arriverà oggi con Eleonora Martini a pagina 4. Scrive il Manifesto: se la Consulta oggi dovesse dichiarare incostituzionale la Fini-Giovanardi, chi ripagherà le migliaia di vite rovinate o addirittura spezzate dal furore ideologico di una legge che ha preteso di equiparare la marijuana all'eroina, il consumo allo spaccio, la cessione al narcotraffico? Solo per fare un esempio, il ragazzo di 21 anni ieri arrestato nei pressi di una discoteca a Calcinelli di Saltara perché in possesso di 40 grammi di marijuana, valore di mercato 320 euro, pronti per essere spacciati secondo i carabinieri, rischia con la vigente legge da 1 a 6 anni di reclusione se il fatto venisse ritenuto in giudizio di lieve entità, altrimenti rischia da 6 a 20 anni, e le carceri, scrive il Manifesto, sono sovraffollate anche per questo. E chi pagherà l'ulteriore carico di lavoro dei tribunali, costretti a ricalcolare le condanne dei ricorrenti sulla base del preesistente testo di legge Iervolino-Vassalli che eventualmente tornerà in vigore? Insomma, queste domande le pone il Manifesto a pagina 4, in attesa di questo pronunciamento della Corte Costituzionale. Mi hanno colpito le notizie relative ai Marò, insomma una vicenda che ormai non finisce più, di rinvio in rinvio. Oggi Avvenire fa una pagina di questa vicenda con un'infografica, pagina 5, l'India non retrocede, i Marò terroristi. C'è anche un'intervista al ministro Mauro che al fianco dei soldati dice: così si equipara il ruolo dell'Italia a quello di uno stato criminale. Una vicenda partita il 15 febbraio del 2012 e ormai a distanza di 2 anni ancora non c'è un processo, non c'è un'accusa ben delineata, insomma tutto in grande attesa, e questo lo trovate sui giornali. Complotti, complottoni. La vera domanda però con la quale mi sono svegliato, come ho detto, alle 6.30, alla quale non c'è risposta, è questa: ma Obama se la intende con Beyoncé oppure no? Ecco, questa è una domanda alla quale molti italiani vorrebbero una risposta certa, definita e chiara, come ne parlano oggi i giornali. Obama e Beyoncé sono, insomma, amanti, hanno avuto un flirt, come ha detto un fotografo francese citando il Washington Post, poi il Washington Post ha smentito e parzialmente anche questo fotografo francese ha fatto retromarcia. Obama e Beyoncé, di cui circolano delle foto in occasioni pubbliche, ovviamente, di sorrisi, ma perché insomma sono due persone celebri. Se la intendono oppure no, chi lo sa. Intanto concludiamo con il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali, a mio insindacabile giudizio ovviamente, vince Il Secolo XIX, che oggi a pagina 7 scrive della decisione imminente del presidente Nursultan Nazarbayev, presidente del Kazakistan, che ha detto basta. Basta, voglio cambiare nome al mio paese, perché tutti i paesi che finiscono con Istan, Pakistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Turkmenistan sono antipatici, sembrano assimilati al terrorismo. E allora da Kazakhstan voglio cambiarlo in Kazakheli, nazione dei kazaki. Ma chi se ne frega? Ma dobbiamo scriverne un articolo. Ma dai, su, La Carta Costa. E vabbè. 24 mattino. Sono le 8:18 minuti in questo istante, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, quello che i cittadini svizzeri hanno deciso domenica per referendum, cioè porre delle quote di ingresso all'immigrazione, chiedendo dunque di rivedere gli accordi di libera circolazione delle persone conclusi con l'Unione Europea, è una decisione che non riguarda ovviamente solo la Svizzera, tanto che ieri esponenti politici a Bruxelles hanno reagito in maniera anche furibonda, minacciando ritorsioni nei confronti della Confederazione Elvetica. Dunque un braccio di ferro che riguarda i rapporti tra stati, i rapporti tra stati e Unione Europea. Da qui voglio partire per discuterne con il governatore della Lombardia, Roberto Maroni della Lega. Buongiorno e ben ritrovato, presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, lei si accoda alle preoccupazioni europee? Lei si era espresso contro questo referendum. È preoccupato anche lei? No, non mi ero espresso contro il referendum, anzi io sono a favore dei referendum. Quando il popolo sovrano viene chiamato a esprimere la propria opinione è sempre un buon esercizio di democrazia. Il popolo svizzero si è espresso, dobbiamo prenderne atto, non è la decisione di qualcuno al governo che non sa di che cosa parla, è il popolo svizzero. È una decisione con cui dobbiamo fare i conti e quindi trovare le soluzioni, perché questa decisione dovrà essere adottata dal governo svizzero e dovremo capire che cosa fare. Per quanto ci riguarda, non mi preoccupa tanto la possibilità di rivedere i trattati internazionali. Il governo svizzero avrà tempo 3 anni, non c'è nessuna ricaduta immediata o nessuna cosa urgente da fare. Quello che mi preoccupa è un po', certamente, è la necessità di rivedere il trattato bilaterale Italia-Svizzera, quello che riguarda i frontalieri, i 60.000 frontalieri lombardi che ogni giorno vanno a lavorare in Svizzera, perché a ottobre ci sarà da rivederlo e lì c'è una cosa che ci interessa molto, che è i ristorni, che sono i ristorni che il governo svizzero fa sui comuni lombardi. Cioè ci sono, spieghiamo, c'è una parte delle tasse che i frontalieri pagano in Svizzera che poi tornano ai comuni di frontiera italiani e che sono soldi, che in Svizzera minacciano di bloccare a questo punto. Non è proprio così, i lavoratori italiani lavorano in Svizzera, quindi pagano le tasse là, però usufruiscono dei servizi italiani, dei comuni italiani, i servizi di welfare, la scuola, eccetera, eccetera. Quindi si decise nel 1974 che una percentuale di queste tasse venisse ristornata ai comuni lombardi, il 38% circa. Negli anni successivi il governo svizzero fece convenzioni analoghe con altri paesi, ma con una percentuale molto molto più bassa, e adesso dice adeguiamo questa percentuale. Questo che cosa significa? Significa che i comuni lombardi, che la Lombardia, si vedrebbero fortemente penalizzati, e siccome la trattativa la fa il governo italiano, io di questo sono preoccupato più che di quello che succederà fra 3 anni forse a livello europeo. Ecco, ma lei Maroni ha detto che questa trattativa vorrebbe che la facesse Letta in persona e non il ministro dell'economia Saccomanni. Ma perché? Non si fida di Saccomanni? Ma io mi fido e non mi fido di nessuno, guardi, qui siccome la questione non riguarda solo i conti o parametri economici o cose del genere, ma riguarda la sussistenza stessa della l'esistenza stessa del nel bilancio dei comuni lombardi, io penso che sia utile che ci sia a trattare chi ha una visione complessiva e non solo dei conti, primo. Secondo, poiché riguarda essenzialmente la Lombardia, io oggi chiederò a Letta, che viene a Milano, che la Lombardia sia al tavolo della trattativa, perché non può essere che noi assistiamo impunemente, subiamo solo le decisioni di Roma, cosa che riguardano direttamente la Lombardia. Ecco. A questo proposito, lei oggi riuscirà a vedere Letta, perché ha detto voglio chiedere con lui un incontro con urgenza, voglio una zona, chiederei una zona franca di quanta profondità, intanto di chilometri, dove... Ma noi abbiamo già una cosa simile, la Lombardia ha fatto anni fa una zona quasi franca, diciamo così, per la benzina, perché i cittadini lombardi di confine andavano in Svizzera a fare benzina perché costava meno, con lunghe code e un danno grave al sistema economico lombardo, perché tutti i distributori di quella fascia di confine dovettero chiudere. Sono una zona di 20 km dal confine dove c'è uno sconto, chi risiede lì ha uno sconto sulla benzina, le accise regionali sono state ridotte. E si potrebbe applicare una cosa simile, io gli proporrò una sperimentazione, una zona franca di confine per abbassare la pressione fiscale a chi? Agli imprenditori, alle imprese che lì soffrono la concorrenza del Canton Ticino, che ha tasse più basse, burocrazia più efficiente. Questo servirebbe alle imprese per una boccata d'ossigeno, ma soprattutto consentirebbe loro di assumere, e quindi ridurrebbe il fenomeno del frontalierato, cioè di chi va in Svizzera per cercare un lavoro perché qui non lo trova. Ma riuscirà a vederlo? Cioè, ha avuto una risposta da Letta? Vi incontrerete oggi? Sì, sì, viene a Milano oggi, quindi nel pomeriggio lo incontrerò. Senta, la Svizzera dice tuteliamo prima i nostri posti di lavoro, dovrebbe farlo anche l'Italia? No, glielo chiedo perché abbiamo sentito di un possibile referendum da parte della Lega simile a quello svizzero, però la Svizzera non è in un'Unione Europea, noi come potremmo mettere delle quote e bloccare la libera circolazione che siamo all'interno dell'Unione Europea? Sono situazioni diverse. No, sono due cose diverse. La Svizzera non è nell'Unione Europea, ma ha aderito all'accordo di Schengen, diversamente dalla Gran Bretagna, che è nell'Unione Europea ma è fuori da Schengen, e questa è la simmetria stravagante dell'Unione Europea. Quindi ha aderito all'accordo di Schengen che prevede la libera circolazione, ed è questo che vuole rinegoziare la Svizzera. Noi parliamo di un'altra cosa, noi non parliamo di lavoratori, noi parliamo di clandestini, di extracomunitari che vengono in Italia senza permesso di soggiorno. Quindi il referendum che propone la Lega su cosa è nello specifico? Quello della prossima settimana, insomma, che è stato annunciato ieri. Sì, non è che lo fa la Lega, proponiamo che anche da noi si faccia un referendum simile a quello che si è fatto in Svizzera per sentire su un tema di così grande sensibilità pubblica da parte dei cittadini di sentire l'opinione del popolo sovrano anche qua, e vogliamo sentire che cosa pensa su questi temi, e cioè anche qui sulla priorità del lavoro ai cittadini residenti, che non è una limitazione della libera circolazione delle persone, ma è un modo per fronteggiare, per risolvere i problemi della crisi economica. Senta Maroni, lo chiedo a lei come l'avevo chiesto settimana scorsa a Tosi, perché all'interno della Lega ci sono state delle posizioni diverse. La sua posizione personale sulla questione dell'euro, cioè lei, Roberto Maroni, uscirebbe dall'euro? Io dico che l'euro è una questione che va affrontata senza tabù. Ci sono ragioni a favore e ragioni contro. Però non possiamo considerare la nostra partecipazione all'euro come qualcosa di intoccabile. Anche qui avevo proposto io un anno e mezzo fa di fare un referendum abbinandolo alle elezioni europee per sentire l'opinione dei cittadini, per valutare se sono tutti vantaggi come qualcuno dice o se ci sono stati enormi svantaggi come qualcun altro sostiene. Solo che questo esercizio nessuno vuole farlo, perché la decisione di aderire all'euro fu una decisione tutta politica, presa dal governo italiano e su questo non si vuole ritornare, ma io non vedo francamente perché non farlo. Dopodiché possiamo valutare laicamente, l'euro è una moneta, non è il Vangelo scritto nella roccia, si è cambiato il sistema, oggettivamente l'euro ha ridotto la competitività delle nostre imprese, io penso che discuterne non sia un male. No, ma questo certo sì, discuterne sì o rinegoziare o tentare di rinegoziare le cose, certo, dire uscire o no dall'euro è una posizione, se vuole, un po' più radicale. Sì, ma perché no? Voglio dire, dove sta scritto che per forza bisogna morire con l'euro o dentro l'euro? Questo è il problema. Solo che quando uno ne parla, quando uno ne discute, è il solito xenofobo, razzista, anti-europeista, tutta la negatività, populista. Certo, noi siamo populisti. Il populismo, la radice deriva da popolo. Noi siamo per il popolo, non siamo con le banche o con la burocrazia europea, questo è poco ma sicuro. Senta, due domande di politica per concludere. Beh, lei oggi vedrà Letta, ma sa che Letta forse è anche preoccupato per qualcosa di più, insomma, di più urgente, si parla di staffetta, non staffetta. Lei dalla Lombardia e come Lega, come vede la possibile staffetta di governo, cambi di governo o nuove elezioni? Certamente Letta è molto più preoccupato di questo che non dei frontalieri lombardi, è poco ma sicuro, ma io lo solleciterò su questo. Quello che succede a Roma lo guardo con un certo distacco, mi interessa certamente perché il governo mi deve dare risposte che finora non ha dato. Io penso che se la situazione va avanti così, piuttosto che rimanere nella palude, è meglio sciogliere tutto e andare a nuove elezioni. E non la staffetta invece, cioè Renzi al governo senza una legittimazione del voto non lo vedrebbe come qualcosa di possibile? Guardi, la democrazia sarà un sistema imperfetto, ma io ci sono affezionato. E chi deve assumere responsabilità di governo, chi può decidere della vita dei cittadini, deve avere la legittimazione popolare, altrimenti siamo tornati a prima della prima repubblica. L'ultima domanda è questa: non la appassiona neanche la vicenda del cosiddetto complottone del 2011? In fondo lei era ministro dell'interno, la Lega era il governo, insomma si parla di questo complotto di Napolitano che avrebbe tramato per sostituire Berlusconi con Monti. Lei che aveva un osservatorio privilegiato lì ci può dire qualcosa della sua testimonianza? Queste cose appassionano molto i giornali, io francamente sono appassionato ai problemi concreti. No, a me non molto, devo dire. A me non molto, però i giornali oggi ne parlano. Guardi, non vorrei che adesso qualcuno venisse fuori dicendo ah, ma certo il ministro dell'interno non poteva non sapere, trattandosi di un complotto, e quindi qualcuno venga a chiedere ragione anche a me. Naturalmente sono le cose che succedono a Roma da sempre, è inutile scandalizzarsi. Si sapeva che c'erano queste operazioni in corso, e quindi non vedo francamente di che scandalizzarsi. Ma quali operazioni? Anche operazioni attorno al governo italiano, non solo sul piano nazionale ma anche su quello internazionale, la borsa, i fondi, tutte queste cose qua. E quindi sono cose romane che succedono spesso. Sono cose romane. Io penso che questa vicenda sia utilizzata adesso, a distanza di 2 anni e mezzo, per altri scopi, non per accendere un faro su quello che successe allora, ma per la contingenza politica di oggi, la palude romana appunto di cui parliamo. La palude romana. A chi chiede in nome di questo un possibile impeachment del capo dello Stato, lei segue su questa linea? No, io dico che da questa situazione si esce in un modo molto chiaro, ritornando alla democrazia, a nuove elezioni anticipate. La ringrazio, buona giornata. Grazie Roberto Maroni per essere stato con noi, Presidente della Regione Lombardia. Noi della vicenda, a partire dalla vicenda svizzera, insomma, continuiamo a parlare, a approfondire. Se volete potete intervenire 800 24 00 24. Insomma, che cosa avete capito di quello che è successo in Svizzera, dove appunto con un referendum popolare è stato stabilito di rinegoziare gli accordi presi con l'Unione Europea per porre e tornare al vecchio sistema e porre imporre delle quote di ingresso di immigrati all'interno della Svizzera. Hanno fatto bene dal loro punto di vista, hanno fatto male dal nostro punto di vista. È un qualcosa che è un messaggio lanciato all'Europa, come dire, non siamo subalterni solo a decisioni prese da Bruxelles, ma vogliamo essere anche fautori del nostro destino. Questo è il messaggio, secondo molti, che la Svizzera ha lanciato. C'è una sfida, come dire, all'Unione Europea, la rivendicazione della sovranità nazionale. Di questo parliamo tra poco con Giovanni Sallusti, che è direttore del giornale L'Intraprendente, e con Laura Sadis, che è responsabile del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia nel Canton Ticino, dunque in Svizzera. 24 mattino. Allora, alle 8:37 minuti, dopo aver sentito Roberto Maroni, governatore della Lombardia, parlare di quello che è successo appena al di là del confine, il referendum in Svizzera di domenica, io voglio salutare e continuare questo discorso chiedendo agli ascoltatori, insomma, cosa avete percepito, cosa avete capito di quello che è successo per referendum in Svizzera. Con Laura Sadis, che saluto, è responsabile del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia del Canton Ticino. Buongiorno e benvenuta, grazie per essere con noi. Saluto anche Giovanni Sallusti, che è direttore del giornale d'opinione L'Intraprendente. Buongiorno Sallusti, ben trovato, eccoci. Buongiorno a tutti. Sallusti, che ieri ha definito, glielo dico subito, dottoressa Sadis, ha definito illiberale questa decisione, per carità presa con un referendum e quindi con il volere popolare che è sovrano, ma illiberale come scelta, quella di chiudersi, di ricreare questa idea delle quote. Intanto ci dia qualche numero per capire quanti sono la quota di immigrati, lavoratori immigrati, Sadis, in Canton Ticino, se vuole, Confederazione Elvetica, magari partiamo dal Canton Ticino che è più vicino a noi. Nel Canton Ticino noi abbiamo cittadini e residenti stranieri circa il 27%, un dato non molto dissimile di quello nazionale, quindi una, come dire, una nazione anche storicamente aperta. Aperta, però questa decisione da parte del popolo svizzero è stata di chiuderla un po' di più questo paese, chiudere di fronte a questa apertura, o non è così? Ma io posso capire questa osservazione che è stata fatta di scelta, diciamo, illiberale di fondo. Noi sappiamo che l'Unione Europea si basa su quattro principi: libera circolazione non solo dei capitali, quindi della finanza, delle merci, dei servizi, ma anche delle persone. In questo senso, da chi come me è amatrice liberale, evidentemente le chiusure non piacciono. Sta di fatto che questa espressione di voto, questa iniziativa popolare ha rivelato che cosa? Dei profondi timori di fondo della popolazione. Questo calato in un periodo in cui purtroppo la crisi economica ha toccato tutti, seppur con meno intensità, il mio paese. Dei profondi timori della popolazione, qualcuno invece si è spinto oltre a parlare di razzismo vero e proprio, cioè la difesa prima di tutto degli svizzeri a discapito invece della apertura a cui lei faceva riferimento, con il 27% degli stranieri che vivono in Svizzera. Lei come risponde alle accuse anche di razzismo o addirittura di xenofobia? Diciamo che se noi guardiamo non solo il mio paese, ma anche altri paesi, quando appunto si vivono anni di tensione, di crisi economica, di incertezza, la reazione degli umani è uguale, è quella di cercare di difendere, diciamo, il proprio livello di benessere, il proprio paese, la propria nazione, il proprio territorio, no? Quindi in questo io penso siamo abbastanza simili come umani. Non lo leggerei come un voto, diciamo, xenofobo, anche se in ogni nazione evidentemente ci sono dei fulcri, dei focolai che possono anche avere questo genere di sentimenti verso cittadini di altre nazionalità. Quindi il voto svizzero non lo leggerei così. Non lo legge in maniera razzista, lo legge però, lei dice, da liberale, insomma. Giovanni Sallusti, perché ha scritto che è una decisione illiberale, precisando sempre che però proviene dopo un referendum, e lì almeno, questo dobbiamo dirlo, il volere popolare quando viene espresso da una nazione in Svizzera viene rispettato, e ogni riferimento è puramente casuale. Sallusti. Non c'è dubbio, precisiamo questo e precisiamo anche che, come dire, noi all'Intraprendente rifuggiamo da un vizio radicato, no, nel giornalista medio italico, che è la svizzerofobia. solo pochi giorni fa parlavamo della fuga delle imprese del Varesotto e del Comasco in Svizzera, per una fuga per la sopravvivenza e per il fatturato, quindi tutto meno che svizzerofobia. In questo caso però, come recita un famoso detto latino, mico natore, ma è ancora più amico, e la verità è che in questo caso il referendum svizzero ha preso corpo il liberale dirigista che è il mercato funzionare, è proprio fortemente protezionista verso l'esterno e quindi di fondo dal sapore socialista. Non è che se avviene in Svizzera meno il liberale, insomma, c'è ancora di più visto la. Sallusti, però dobbiamo un attimo, perché alla Sallusti devo dire una cosa, abbiamo Sallusti, mi sente, perché abbiamo la linea telefonica che va e viene, e cerchiamo di ripristinarla, perché un cellulare si sente e non si sente, e quindi vediamo di metterla a posto. Vorrei tornare per un attimo da Laura Sadis a capire, ci faccia intanto capire, perché come spesso si titola in maniera anche improvvisata, in maniera errata, si è detto beh cambia tutto, in realtà in questo referendum si impegna il governo centrale, il governo di Berna, a rivedere gli accordi con l'Unione Europea. Ha visto che però dall'Unione Europea subito ci sono state delle accuse molto forti, anche addirittura ipotesi di ritorsioni, cioè la Svizzera va per questa strada e allora noi rivediamo tutti gli accordi. Davvero succederà che bisognerà cambiare questi accordi oppure ci sarà margine ancora per ritornare su questa decisione? Ma guarda, io personalmente, e come penso anche il governo svizzero che era contrario a questa iniziativa, mi auguro che questi margini di discussione ci siano. Se però questa decisione fosse in netto contrasto con gli elementi fondanti dell'accordo sulla libera circolazione concluso dalla Svizzera con l'Unione Europea, evidentemente questo rischia di fare scattare la clausola ghigliottina, cioè cadendo in pratica un accordo, gli altri accordi seguirebbero questa fine. Evidentemente questo è uno scenario che non mi auguro. Non si augura questo. Sa che molti ascoltatori, qualcuno ci scrive via SMS questo, per esempio: abbiamo chiesto il rientro del capitale dalla Svizzera e loro ci ripagano così. Insomma, in qualche modo è una ritorsione anche della Svizzera di fronte alle richieste che provengono dall'Italia e anche da altri paesi sulla questione dei capitali esteri. Questa lettura le piace? Non direi, anche perché se per esempio questo aggiornamento degli accordi contro la doppia imposizione tra Svizzera e Italia possono interessare, diciamo, in maniera accresciuta magari la Svizzera italiana come terza piazza finanziaria, meno questo tema è sentito a livello nazionale, quindi io non farei un legame logico così stretto questo, tra le due cose. Questo tipo di paragone. Se poi magari due cose le possiamo dire su questo aspetto mi piacerebbe. Su che cosa? Su questi negoziati che dovrebbero riuscire a ridecollare. Tra poco ne parliamo, anche perché insomma Laura Sadis possiamo dire il Saccomanni del Canton Ticino? Molto piccola Saccomanni. Beh, insomma, è il ministro dell'economia del Canton Ticino, sì. Quindi il Saccomanni del Canton Ticino. Sallusti, abbiamo ripristinato meglio la linea. Allora, diceva prima, è una decisione illiberale, in che senso? Beh, parlando di immigrazione, ovviamente la questione ha a che fare con delle prestazioni di lavoro, con del lavoro, no? Quello è il tratto principale dell'immigrazione in Svizzera. Allora, la nazionalità di una persona che viene assunta da un imprenditore svizzero in un paese liberale è una cosa che ha a che fare solo con i due soggetti in questione, no? L'imprenditore e il lavoratore, non ha a che fare col governo. Un governo liberale su questo deve tacere. Diciamo che è venuta un po' meno una sioma del liberalismo che mi piace ricordare con le parole della signora Thatcher: non esiste la società, esistono solo gli individui. Questo referendum invece sembra voler preservare una sorta di purezza, no? E di integrità primigena della società svizzera di fronte al mercato e agli individui, e come accennavo prima, la cosa inquieta a maggior ragione perché viene da un paese coerentemente liberale come la Svizzera, a cui guardiamo spesso come modello positivo, quindi è ulteriormente inquietante in questo senso. È inquietante, insomma, un voler andare contro la storia. Allora, Eccoci qua, siamo con Giovanni Sallusti, direttore dell'Intraprendente, e con Laura Sadis, che è di fatto il ministro dell'economia del Canton Ticino. Però i messaggi sono tanti, c'è chi ci scrive: la Svizzera ha dato l'ennesima lezione di democrazia diretta reale, ci scrive Fabio dalla Lombardia. Non si capisce tutto questo sgomento nei confronti di uno Stato dove la democrazia funziona, così Nicola da Bergamo. Oppure chi dice: l'Unione Europea non concepisce la democrazia nemmeno dei paesi non membri, come in questo caso la Svizzera. Vorrei sentire però due ascoltatori prima di tornare da Laura Sadis. Insomma, uniamo il nord e il sud dell'Italia e, se volete, il sud della Svizzera, o il nordissimo Italia, appena al di là del confine, Foggia e Chiasso. Gustavo da Foggia, buongiorno Gustavo. Buongiorno a tutti. Allora, le cose da dire che ho sono queste. La prima: il federalismo, quello svizzero, unito ad un sistema di democrazia diretta, funziona perfettamente ed è una Unione Europea già testata da decine di anni. Io consiglierei all'Unione Europea di guardare al modello svizzero, dove francesi, tedeschi, austriaci e italiani convivono da tempo. Sì. Seconda cosa: c'è sempre qualcuno più a nord di chi si crede a nord. Terza cosa, per quanto riguarda il modello svizzero, a chi si riferiva con questa battuta? Io sono un ex iscritto alla Lega, perché io credo nel, e credevo e credo nel federalismo. Non lo hanno realizzato, quindi cioè non credo più in loro. Foggia, da Foggia è iscritto alla Lega? Sono stato anche segretario qui della Lega, in qualche senso, cioè li ho rappresentati. Fantastico, perché credo a Foggia. Credo, sì, ma di fatti ne ho prese di tutti i colori. No, voglio immaginare. Sta di fatto, ma le ho prese dagli amici, cioè dagli alleati, da quegli altri. Metaforicamente parlando, è sempre. Le ho prese dagli alleati, ma io credo fermamente nel federalismo. Un paese disunito come è così ricco di differenze, quella è una ricchezza. No, ma è chiaro. Come l'Italia si salva solo col federalismo. Dalla Svizzera. Gustavo, la ringrazio. Da Foggia, ex segretario della Lega, responsabile della Lega a Foggia. Beh, straordinario. Allora, come dicevo, a Chiasso, appena al di là del confine, Daniele da Chiasso, quindi dalla Svizzera. Buongiorno Daniele. Buongiorno a tutti. Lei ha votato al referendum? No, non ho votato. Io sono un italiano che 3 anni fa ha deciso di trasferirsi in Svizzera. Ah, perfetto. Pur essendo una persona di confine, cioè pur avendo una residenza molto vicina al confine. E quindi? Però avevo avuto un'occasione di andare a lavorare in Svizzera e ho preso la decisione di trasferirmi e quindi di non fare il frontaliere. Che ne pensa di questa decisione? Cioè sente, diciamo, percepisce del razzismo nei confronti suoi, anche che è italiano residenza di Svizzera, oppure no? Gli svizzeri hanno fatto solo la difesa dei loro interessi. Allora, guardi, io ho vissuto all'estero per tantissimi anni, girando un po' il mondo, quindi Spagna, Argentina, Stati Uniti, un po' ovunque. Le dico che la Svizzera non è assolutamente razzista e il voto di ieri, dove il Ticino ha pesato più di tutti gli altri cantoni, è una dimostrazione che se i politici non seguono le indicazioni del popolo, che in Svizzera è sovrano, come giustamente lei ha detto, allora i segnali sono molto forti. Okay? Sì. Quindi è una difesa di un sistema. Io come italiano ho deciso di andare di là, sì, okay, a vivere di là, per imparare. Per il senso della sovranità popolare. No, ma ha detto delle cose interessanti, Daniele. Mi scusi se le tolgo la parola, ma altrimenti il tempo fugge. Vorrei da Laura Sadis capire cosa ci voleva dire riguardo agli accordi con l'Italia per la questione dei rientri dei capitali. Sadis. Io penso che bisogna cercare di fare uno sforzo di identificazione di obiettivi positivi di interesse comune. Se devo fare una sintesi, il mio paese ha un interesse molto chiaro, e già da qualche anno anche nei fatti con altri paesi ha rinnovato degli accordi, vuole gestire in ambito bancario capitali, gestione patrimoniale, capitali fiscalmente dichiarati. Il problema che dobbiamo risolvere è la regolarizzazione del passato. Allora, abbiamo preso atto che attualmente in discussione in Italia questa autodenuncia spontanea, sì, vedremo alla fine, anche dopo l'esame parlamentare, quali saranno gli esatti termini, Io credo che questi due binari possano proseguire assieme. Perché dico questo? Perché se ci sono possibilità in tempi anche relativamente brevi, con una chiarezza anche sostanzialmente per il cittadino contribuente italiano, dei termini di una regolarizzazione del passato, cioè di fare in modo che fiscalmente capitali sinora non dichiarati possano rientrino, esserlo. Ecco, io credo che questo sia nell'interesse di entrambi, perché un buon accordo con la Svizzera permetterebbe alla Svizzera di gestire capitali fiscalmente dichiarati, sì, non gestirli ancora in Svizzera, e all'Italia, secondo me, in tempi relativamente brevi di poter avere un importante... di recuperare, quindi la volontà, esatto, la volontà c'è. Questo per fare cosa, mi scusi, per concludere, per evitare che questi capitali scelgano altri lidi, non aderiscano a autodenunce spontanee. Ah, e vadano altrove. No, esatto. E così sono, diciamo, non vengono dichiarati in Italia e rimanete fregati anche voi, ecco, in Svizzera. Io credo che invece un approccio comune intelligente sia possibile. Sallusti, su questo dobbiamo chiudere. C'è che molti ci dicono, cari voi, non vi piace la democrazia, eh? Non accettate, anche gli ascoltatori, dice, quest'idea del popolo che decide, non vi piace questo, eh? Ma no, in realtà a noi piace, Sallusti. A noi piace parecchio, e quel confronto ovviamente con la situazione italiana è impietoso da questo punto di vista. Vorrei dire però che il referendum è uno strumento sano di democrazia vera, diffusa, diretta, non è un feticcio da adorare in sé, no, il consenso popolare. Ora facciamo un esempio che non c'entra niente col caso in questione estremo, però voglio dire, Hitler andò al potere col voto, col consenso popolare, quindi non è un feticcio in sé. Secondo me una decisione che scaturisce dal consenso popolare, ma che calpesta dei diritti individuali e naturali, dal mio punto di vista non è comunque moralmente... E questa lo è? Questa lo è? Questo lo è, assolutamente è quel, sì, caso lì. Sì. E beh, insomma, la posizione è molto netta e chiara. Io ringrazio Laura Sadis, grazie per essere stata con noi, responsabile del Dipartimento Finanza e Economia del Canton Ticino, e Giovanni Sallusti. Ci fermiamo qui anche per oggi. L'appuntamento è rinnovato a domattina 6:30, puntuali. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino.